Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. C'è un fatto di cui ogni buon programmatore è perfettamente consapevole. Si può scavare alla ricerca di errori software, una procedura chiamata debug, che occupa almeno altrettanto tempo di quanto richiede la scrittura di un software da zero. Ma insomma, si può scavare fino allo sfinimento, ma non c'è modo di assicurare che un software funzioni in tutte le situazioni possibili come si vorrebbe. E questo non è un dato empirico, è addirittura un teorema con tanto di dimostrazione. Però a questa sorta di perfezione si può andare vicino. In questo sono di grande aiuto ai programmatori cosiddetti debugger, cioè dei software a loro volta che permettono di testare un programma in molte situazioni diverse, appunto alla ricerca di bug. Giulia, di cui parliamo questa sera, è in pratica la più evoluta cacciatrice di bug al mondo. È il frutto di un lavoro di ricerca di base partito ormai parecchi anni fa da parte di Roberto Giacobazzi e Fausto Spoto dell'Università di Verona, insieme a Frédéric Menard della Università della Réunion, e da questo lavoro 6 anni fa è nato uno spin-off che oggi, dopo l'acquisto da parte di Corvallis, è una startup in pieno sviluppo. Ne parliamo con Fausto Spoto, docente di informatica all'Università di Verona e appunto cofondatore di Giulia. Buonasera Spoto. Buonasera. Allora Spoto, intanto cominciamo a circoscrivere qua un po' il terreno. Intanto, che tipo di errori cercati, in quali linguaggi almeno per ora lavorate, su quali linguaggi per ora lavorate? Il nostro è uno strumento che si applica al linguaggio Java e al linguaggio Android, che anche è una forma di Java. Quindi tendenzialmente è uno strumento che si applica ad applicazioni web e applicazioni mobili su telefono cellulare. Ecco, il linguaggio Java è quello che viene usato dai programmatori per far fare alle applicazioni web le cose attive, diciamo così, no? Quando c'è bisogno di interazione. Benissimo. Esattamente. Il tipo di errori che noi troviamo col nostro strumento automatico sono errori bloccanti, tipicamente quegli errori che bloccherebbero l'esecuzione del programma, quindi darebbero una non disponibilità del servizio o provocherebbero una visualizzazione di un messaggio di errore a video. Perfetto. Non riusciamo per esempio a trovare errori funzionali, ma questo qui è ovviamente normale, vista la complessità del problema. Eh sì, diciamo che gli errori funzionali vuol dire cioè che il software, l'algoritmo non fa quello che si proponeva al programmatore, ma questo è un po' difficile farlo in automatico, perché bisognerebbe essere nel cervello del programmatore, quindi diciamo che quello è quasi impossibile per un debugger risolvere quel tipo di problema. Quindi insomma, voi trovate invece gli errori, quelli che appunto bloccano, e quali sono i limiti in questo momento dell'applicazione? Poi vediamo tutte invece le cose speciali che ha. Oltre a questo, sugli errori funzionali, un'altra cosa da tenere in mente è che ovviamente noi non siamo magici, noi facciamo un'analisi automatica con il nostro strumento, quello che otteniamo alla fine è una lista di segnalazioni e abbiamo la garanzia che lì dentro ci sono tutti gli errori bloccanti, che questo è un punto forte che ci differenzia dalla concorrenza. Però deve essere chiaro anche che ci sono anche delle segnalazioni che potrebbero non essere errori. Alcuni falsi allarmi. Esattamente, okay. Dovrà essere il programmatore a quel punto ad avere lo spirito critico per capire il senso del dove c'è l'errore e dove non c'è. Quindi diciamo che il debug non sparisce completamente, ma viene fortemente accelerato. Certo. E dicevo che oggi è il debug diciamo più evoluto, perché? Ci spieghi perché? Si può oggettivamente dire questo? Il punto forte della nostra proposta è che ci basiamo su una tecnologia semantica, quindi il frutto della ricerca scientifica di svariati decenni, in cui il nostro strumento è capace di ragionare sul significato di quello che il programmatore ha scritto. Si parla di matematica astratta, cioè voi che cosa fate? Noi siamo capaci col nostro strumento di astrarre gli stati possibili del programma. Ovviamente gli stati possibili saranno infiniti, ma il nostro strumento li categorizza in un insieme finito di categorie e ragiona su quelle categorie. In questo modo, riducendo l'infinito al finito, siamo capaci di dare un risultato in tempo finito. Ovviamente dobbiamo pagare un prezzo, e il prezzo è questa presenza di segnalazioni che in realtà non corrispondono a reali errori. Ecco, perché proviamo a spiegarlo in questi termini. Dicevo all'inizio che è impossibile dimostrare che un programma funziona in tutte le situazioni, proprio perché bisognerebbe percorrere tutti i cammini possibili, che sono infiniti. Ecco perché è impossibile sostanzialmente. Esatto. Avete sgocciolato una specie di trucco. No, riportate questi infiniti cammini in una serie limitata di categorie, pagate questo prezzo di qualche falso allarme, ma escludete appunto in questo modo tutti gli errori bloccanti. Ecco, tra l'altro oggi si parla molto di sicurezza informatica e molti hacker fanno affidamento proprio sui difetti di progettazione, sui malfunzionamenti del software per riuscire a infiltrare un sistema. Qui c'è un ruolo, insomma, mi pare significativo, quindi del certo. Debugging. Certo, perché il concetto di errore è un concetto molto esteso ovviamente. L'errore può essere anche la possibilità di infiltrarsi dall'esterno, appunto, e questo è dovuto al fatto che il programmatore ha scritto male delle istruzioni che hanno aperto questa porta verso l'esterno. il nostro analizzatore è capace di trovare questi esempi, quindi è capace di capire che c'è un'istruzione scritta male che apre la strada ad attacchi esterni che possono avere conseguenze gravi come cancellare dei dati o accedere a numeri di carte di credito in maniera illegale, eccetera. È uno probabilmente degli esempi in cui si capisce l'importanza del debugging, in senso lato direi quasi. Senta, per capirsi, con chi avete lavorato finora? Noi abbiamo lavorato essenzialmente con banche, assicurazioni e grandi aziende. Sono i tre contesti in cui c'è una maggiore pressione perché il software funzioni bene, ovviamente. Però la prima che è stata l'OSA Air Force, o sbaglio? Sì, l'Air Force la considero quasi un'azienda, insomma, una grande azienda che ha interesse a garantire che le informazioni siano segrete. Quindi hanno spinto per l'utilizzo di questa tecnologia, ci hanno anche spinto a migliorare e a sviluppare nuove possibilità della nostra del nostro analizzatore. Va bene, grazie allora Fausto Spoto. Grazie a voi. È tutto, a lunedì. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.